America di Nixon pace più non ha, perché troppo gli è costata la guerra del Vietnam. In crisi è caduta e si vuol rialzar, facendo a chi lavora le colpe sue pagar. Ed ecco a Ferragosto, giornata di vacanza, che Nixon la sfida alle nazioni avanza. Non pagherò i dollari esportati, perché di oro in cassa non ne ho. Bisogna che anche voi vi sobbarcate le guerre che ho fatto e che farò, perché Nixon con le guerre esporta la civiltà, e se non ci credete andate nel Vietnam. Andate a sonni e troverete che posto non c'è più per sotterrare le genti che quel boia ha massacrato, di un popolo che da nessuno vuole essere liberato. America, America della civiltà, i popoli del mondo non sanno che cosa far. America, America, la guerra del Vietnam, America, America, la ultima sarà. O proletari di tutto il mondo, liamoci, e dell'imperialismo liberiamoci, buttiamo a mare tutti i generali che la causa mali. Libertà, eguaglianza, autogestione, solidarietà, rivolta.